Ciao, io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. Hey everybody, this is John Conley of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rosso on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Bella raga, sono Pietro. Anche di solo vinili libri, io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Ventuno e sei minuti. E ritorniamo in voce qui sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in FM della banda romana e laziale ed in diretta streaming sul restante globo terracqueo e quindi attraverso il sito raggiungibile al www.ondarossa.info andando a cliccare su Ascolta. Allora, ritorniamo dall'oltretomba. Eh sì, perché dopo un periodo di pausa ritorna Do It Yourself Invasion. Yeah! E ritorniamo con nel pieno, insomma, del rinnovamento, della rivoluzione del palinsesto. Quindi dal giovedì ci spostiamo al martedì. Quindi l'appuntamento sarà fisso per ogni martedì dalle 21 alle 22.30. Sempre attraverso il sito raggiungibile al www.ondarossa.info potete rimanere aggiornati con le notizie che vengono registrate nell'arco della giornata. E quindi attraverso le corrispondenze, nonché i podcast delle altre trasmissioni. Se volete potete ascoltare ovviamente anche i podcast di Do It Yourself Invasion, quindi della scorsa stagione, delle scorse puntate, andando a cliccare su palinsesto, poi martedì e poi in fondo andando a cliccare su Do It Yourself Invasion. E quindi un abbraccio ad ascoltatori ed ascoltatrici all'ascolto, nonché il nostro saluto più caro, come di consueto, va a tutti insomma chi si trova privato della libertà personale. Un abbraccio in particolare va a chi si trova dietro le sbarre a seguito dei fatti di sabato scorso a Magliana. Quando sono scesi in piazza antifascisti ed antifasciste in risposta a la manifestazione non autorizzata di Casa Pound, prima di andare a presentare l'ospite di questa sera, quindi dedichiamo punta ai compagni e alle compagne dietro le sbarre qui del lavoro fuoco dei repressione 13-12 ACAB. È venuta male, eh? No, non va così, più convinta. Allora, da capo, 13-12, loro sono in repressione. Sacerdoti, capi tribù, funzionari di Stato, hanno sempre saputo le trappole che si hanno fabbricato per esercitare un controllo sui comportamenti e riprodurre i rapporti sociali e di potere ad essi più graditi, ce lo dimostrano ampiamente. C'è un esempio di trappola terribilmente efficace che voglio riportare per il suo valore metaforico. È la trappola per lupi in America intorno all'Ottocento. E ci viene descritta così. La semplicità e la ghiacciante eleganza di questa trappola è legata all'attrazione del lupo per il gusto del sangue. Una lama di coltello insanguinata veniva lasciata congelare nel ghiaccio invernale. Leccando il coltello, il lupo si tagliava la lingua e cominciava a sanguinare. Così continuava a leccare il coltello con foga ancora maggiore, perdendo sempre più sangue, fino alla morte. Il sangue dell'animale attirava altri lupi, che attaccavano a loro volta la vittima e alla fine si attaccavano l'un l'altro. In tal modo, un intero branco di lupi poteva essere distrutto con una sola trappola. Ecco, i codici della comunicazione sociale imposti dal potere dominante sono appunto una lama di coltello insanguinata. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ci siamo scaldati al... al veleno corrosivo di repressione. E quindi siamo pronti a presentare l'ospite di questa sera. Non è stata facile, eh? Cioè, non è stata facile per una serie di motivi. Però, insomma, con tenacia abbiamo lottato per averla qui ospite. Grazie, grazie. Prego. Allora, buonasera, perché ci abbiamo qui ospite a Radio Onda Rossa, negli studi di Radio Onda Rossa, qui da noi, appunto, tu nonna. Ciao, sono tu nonna. Partiamo dal presupposto che in questo momento sono tipo l'inadeguatezza fatta persona e non so parlare in maniera radiofonica. Vabbè, allora siamo almeno in due in questo momento. Esattamente, infatti mi sento un po' compresa. No, non è stato facile perché purtroppo sono reduce da feste in villa, in piscina, ospitata in discoteca, e chi più ne metta. Insomma, ho trovato questo piccolo spazio per DIY Invasion. Anzi, tra poco mi passano a prendere il limousine, quindi se possiamo fare... grazie comunque, no, veramente sei stata carinissima, insomma, essere qui, ad aver accettato, insomma, l'invito qui a Do It Yourself Invasion. E no, vabbè, cioè, chi è tu nonna? Chi non conosce tu nonna? Beh, tu nonna è una persona in questo momento estremamente in imbarazzo, che tra l'altro non riesce a parlare. E no, allora, ci tenevo a precisare questa cosa, che la prima cosa che tutti mi chiedono: ah, che taglio, tu nonna, perché tu nonna? E questa cosa è nata completamente per caso, cioè nel senso che un giorno ho imparato ad usare l'internet, cioè tipo un paio di mesi fa. E non del tutto? Cioè... non del tutto, esatto. E ho detto, vabbè, mi iscrivo su YouTube, perché è la cosa che fanno i giovani. Se vuoi un minimo di riscontro nella vita, ti devi fare il canale, esatto, YouTube. Ho detto, mi faccio il canale YouTube perché è utile, insomma, fa curriculum, quindi certo, faccio questa cosa. Se non che inizio a iscrivermi su YouTube e vuole l'username YouTube, e siccome gli iscritti sono pochi, circa 67 miliardi di persone, ho iniziato mettendo i vari nomi che di solito uso, che... ne so, Silvia Six, che è tipo l'altra mia personalità, Six, bla bla bla, insomma, no, provati un bel, cioè, po'. Quindi già stiamo dando delle informazioni precise, c'è una personalità abbastanza splittata, sì, in diverse, sì, in diverse 3, dimensioni. 4 personalità, 5, dipende dai giorni della settimana. Vabbè, vedremo di conoscerne qualcuna stasera. Vabbè, insomma, per farla breve, non mi prendeva nessuno degli username. A un certo punto tipo ho sbroccato, perché ho la pazienza di un topo morto, e ho detto, vaffanculo YouTube, tipo tu nonna, come me devo chiamare, tu nonna, ho messo tu nonna, e me l'ha preso, me l'ha preso. E che è successo poi? Che tipo... Quindi c'ha bisogno odiare le tecnologie. Esatto, bisogna odiare le tecnologie perché ti fanno avere dei nomi stupidi. E che è successo? Che praticamente poi misi un video di una cover su YouTube, che praticamente il giorno dopo ci hanno fatto un articolo e mi ha fatto ridere tantissimo, e sull'articolo hanno scritto: non sappiamo chi sia questa tu nonna, ma ha fatto una cover bellissima. A me leggere questa cosa mi ha fatto ridere per mezz'ora. Aspetta, e da lì l'articolo ho deciso... era su Vice? Purtroppo ammazza, sì, che memoria. Purtroppo sì. Hai capito? Non c'entro niente, io non so come ci siano arrivati, però l'hanno messo su Vice, cioè su Vice c'era scritto non sappiamo chi sia tu nonna, e a me sta cosa mi ha fatto molto ridere, quindi ho detto, vabbè, sai che c'è, ma chiamiamoci tu nonna. Quindi vabbè, insomma, appunto per affermare la tua persona, eri in cerca di visualizzazione. Ma in realtà no, perché io questo canale lo usavo per mettere tutte le stronzate che registravo in cameretta, e ho caricato un sacco di video, di tracce audio che registravo in cameretta, e le sentivano in tre, e, tra cui mia madre, e tipo, ho caricato questa cover di Pagliaccio di Ghiaccio di Metal Carter. Ma in famiglia c'avete anche un altro progetto parallelo, tipo tu... Okay. Tuzia qua pelata. È un progetto su cui stiamo lavorando in famiglia. E no, ti giuro, cioè veramente l'ho messa tipo insieme a tutte le altre stronzate che avevo registrato, e il giorno dopo mi hanno telefonato per dirmi: Silvia, ma visto che ci sta su Vice l'articolo? E io ho detto: ma che cazzo stai a dire? E sono andata a vedere e effettivamente c'era. No, vabbè, ce lo siamo detto, cioè, nella contrattazione di questa ospitata, cioè una delle clausole insomma era quella di dire assolutamente la verità su ogni cosa. Certo. Quindi no, io rilancio pure un'occasione ricca per i fan di tua nonna, che insomma, cioè, voglio dire, e se volete scoprire qualche segreto di tua nonna, cioè quello che, come si dice, quello che non avete mai osato chiedere a tua nonna, sì, potete farlo questa sera. Voi 15-16 che siete fan di tua nonna, potete farlo questa sera. E potete farlo in diretta, quindi chiamando allo 06 44 69 102, lo ripetiamo, 06 44 69 102. E quindi potete chiedere qualsiasi cosa a tua nonna, lei risponderà con assoluta sincerità. Esatto. Va bene, allora no, va bene, siamo pronti a nulla. A nulla, cioè, perché tutto non è stato a nulla. Provato assolutamente niente. In assoluta sincerità io dico che devo pure fare la pipì, però non la farò. Cioè, te la tieni per tutta la trasmissione? Sì, figo. Cioè, per aggiungere di disagio. Esatto, voglio soffrire tantissimo. Bello, no, questa cosa mi piace. Allora, io però per andare a colmare il background di tua nonna. Ops, stavo dicendo di tua nonna. Tua nonna. De tua nonna. Allora, assolutamente in diretta. No, perché insomma, sì, tu nonna è una delle sfaccettature di questo elemento che abbiamo qui negli studi di Radio Onda Rossa. Però, insomma, non è che nasce così tu nonna. C'è un background. Tu nonna nasce tipo negli anni 30, quantomeno 40, se c'è un personaggio storico. Tu nonna, Silvia Six. Sì. Strimpella la chitarra anche con un altro gruppettino. Sì, un altro gruppettino che si chiamano Godog, perché comunque tutto ciò che io faccio comunque ha una connotazione estremamente seria. E tra l'altro saluto Claudia, che tra l'altro è stata ospite E anche lei con un concertino niente ma, cioè vabbè, fuori. Vabbè, insomma. No, è stato liberatorio quel concerto, perché vederla esprimersi con microfoni a contatto, grattugie, cioè, si è portata tipo una valigia di cianfrusaglie, sembrava un mercatino. Lo fa. Infatti quando andiamo in tour siamo sempre comodissimi, di solito dobbiamo andare con 3-4 autobus per portare tutta la roba. E sì, c'è anche quest'altro gruppo che si chiamano Godog, e tra l'altro a breve registreremo il disco che verrà distribuito nei peggiori bar di Caracas, penso, solitamente. Solo nei peggiori bar di Caracas. Bene. Non andrà su internet, no? No, assolutamente no. A noi internet ci fa schifo. Benissimo. E quindi non troveremo neanche un pezzo su internet dei Godog. In realtà sì. Se vai su www.youtube.com sì, e cerchi violenza negli stadi, che tra l'altro è uno dei nostri argomenti preferiti, potrei trovare un pezzo dei Godog che si chiama appunto Violenza negli stadi, delicatissimo, registrato in sala prove addirittura. Sì, cioè, roba forte, roba di DIY pesante. Bene, noi siamo pronti. Va bene, allora Godog, Violenza negli stadi. Violenza, d'altro. Come? breve ma intenso, come la violenza. Sì, come un calcio inaspettato sui denti. Esattamente. È questo un po' che vogliamo comunicare, in fondo. Violenza. Questa era una citazione. Salutiamo i Buttero. Va bene, va bene. No, Grandi Buttero, e tra l'altro, se posso fare un po' di pubblicità. Come no? Suoneranno a Surprise, no, non è stato annunciato, ma suoneranno, faranno qualche pezzetto l'11 novembre al 360 gradi a San Lorenzo. Questa serata che ho organizzato con la mia etichetta, che si chiama, l'etichetta di cui faccio parte, che si chiama UA. UA! Così. E suoneranno i Norwoods, nostra prima uscita, i Social Trauma, i Shred e anche un pezzettino i Buttero. È una serata molto carina, divertente, si farà del bevere, della violenza, quello che volete. È molto figo. Se volete venire a supportarci, tra l'altro, perché è la prima serata, la prima cosa che organizziamo come etichetta, siamo appena nati. Quindi prima uscita Norwoods, sì. Gruppo di Roma. Perugia. Di Perugia. De Perugia. De Perugia. Sì, perché a noi ci piacciono i burini. No, no, tra l'altro belle situazioni tra Perugia, Trasimeno e dintorni. Esatto. No, veramente, esatto. Vabbè, se vi capitano, insomma, di vedere in giro iniziative organizzate dal Giro Hardcore di Perugia e dintorni, andateci, che è veramente una figata. No, vai, poi a Perugia si beve forte, si divertono forte, hanno una bella situazione. Sani valori, cioè, bere. Esatto. Va bene. Allora, no, io mi prendo un minuto. Sì, no, sì, direi che, insomma, preparati per farci sentire qualcosa. E miei, cioè, non... Ho spaccato la chitarra. Va bene. E, sì, nel frattempo che tu nonna si prepara per suonare, no, mi ha lanciato là per una chicca dei Buttero. Qui c'ho pronte delle anteprime, delle cose in esclusiva mondiale, e poi me le dimentico. Allora, lasciatemi un minuto che vi faccio sentire qualcosa in anteprima. No, la buona notizia è che l'ho trovato il pezzo. Questa è un'anteprima, un pezzo dei Buttero che uscirà sul lavoro di imminente uscita, in anteprima mondiale per Do It Yourself Invasion. Credo si chiami Vatta a ficca a letto. Questo è un pezzo del prossimo lavoro dei Buttero. Ah! cioè, che bomba, dire? Che bomba, cioè, che... sto in fississimo con i pezzi che durano meno di un minuto. Se durano meno di 30 secondi è ancora meglio. No, questo 36 secondi, vabbè, miglioreranno. Ci devono lavorare un po' su, dai. Allora, sì, giusto una cosa che... quel microfono è... cioè, è sì, cioè te ne sei accorta prima, è poco sensibile. Ok. Cioè, quindi devi... Beh, raga, vi spieghiamo una cosa. Ecco. Io sono arrivata qua tipo 5 minuti prima. E sì, famo, non famo, suona, fai cose, microfoni messi a caso, e non abbiamo provato assolutamente niente, quindi non sappiamo assolutamente niente di quello che succederà. Noi mettiamo le mani avanti. Esatto, io metto sempre le mani avanti. Ok. La filosofia di vita, mette le mani avanti. E quindi non sappiamo assolutamente se si sente la chitarra, se funziona il microfono, non sappiamo nulla. Se c'è una chitarra. Perché, esatto, ma è una chitarra questa. Bah. E quindi non lo so, facciamo questa. Proviamo un po'. Dai. Ah, secondo me si sente. Cioè, l'armonia. Sì. Aspetta. Mazza, se sente, cioè, una bomba. Perfetto. A questo punto tedierei i nostri radioascoltatori con un pezzo che parla del Natale. Allora, io in questi giorni sto registrando il disco, che non so se verrà mai finito e tutto quanto, ma se verrà finito dovrebbe uscire nel periodo natalizio, perché è una ruffianata. No, vabbè, c'ha un senso questa cosa, perché tra i vari venderlo pezzi, a parte venderlo e farlo per regalo a parenti e amici a cui volete particolarmente male, ma anche perché volevo far uscire questa canzone come primo singolo, che è una canzone che parla del Natale, che ho scritto probabilmente a luglio-agosto, perché completamente fuori tema, e che parla appunto del Natale, visto che siamo a novembre e già ho visto le prime lucine, i primi addobbi che l'hanno messi tipo il 16 agosto, tra l'altro, e vorrei iniziare a farvi entrare nell'atmosfera natalizia già da adesso. Però questa è una cosa che dici, io t'ho visto suonare a luglio, cioè dicevi la stessa cosa, comunque vabbè. Cioè, nel senso, no, perché è giusto. Perché è sempre Natale. Cioè, io. Sempre Natale. Perché il Natale non è una festa, è un modo di vivere. Cioè, niente, mi sono commosso. E questo pezzo si chiama A Natale siamo tutti più parenti. Che poi è un po' quello il senso. Sono un po' ossessionata da parenti, ci ho fatto caso. Sì. Nonna, tuzia, sì, infatti. Natale. Approfondiremo il tema famiglia più avanti. Okay. Prego, maestra. Tra poco è Natale, siamo tutti più parenti, faremo il cenone e regali intelligenti, odore di zio Bruno, bagno schiuma gusto sport, i pacchi di calzini caldi anche al Polo Nord, le dita che puzzano di pesce, te perdo sempre la collana di canditi che ho levato al panettone su Carlo e zio Simone. Giochi, ma nonna dice che pigiama di flanella è un passo verso faccio il paradiso, mi passa il pan pepato, mi metto sul divano. Le dita che puzzano di pesce, a carte perdo sempre la collana di canditi che ho levato al panettone su Carlo e zio Simone. Lo zucchero che cade dal pandaro, facciamoci una foto. Zia Sandra ha litigato con mia madre, un bel Natale. Un attimo, perché il bello della diretta potrebbe essere una telefonata per te. Allora, un attimo di pazienza perché prendiamo questa telefonata. No, questo è il è il famoso trillino di Radio Onda Rossa, perché andando a come funziona qui Radio Onda Rossa, si compone il numero di Radio Onda Rossa, quindi lo 06 44 69 102, e si attacca, e quello significa, però forse un attimo. Vabbè, scusate per, insomma, per l'attesa, dovevamo prendere questa telefonata. Forse, cioè, sicuramente è uno dei 16 fan di tua nonna, il famoso Pizzo. Voglio dire, personaggio dell'underground romano, onnipresente. Vabbè, insomma, sì, il Pizzo, grande Pizzo, vabbè, lo ricordiamo, uno degli aiutanti ed occulti fautori di Apostasia in diretta ogni giovedì dalle 23 circa in poi, quindi vabbè, grazie Pizzo. No, niente, chiamava per farti i complimenti. Grazie. Si è emozionato perché al Pizzo, insomma, le storie a tema familiare, non so, è un ragazzo sensibile, lo conosciamo tutti. Grazie, no? Pizzo, ti ringrazio molto. Pensavo che era il vicino che chiamavi. Wow, e basta un po' questo, no, pipì. No, perché il vicino non lo conosci, cioè non farebbe così, cioè, sarebbe più irruento, quindi vabbè. Okay. Nervosetto. Ok, va bene, insomma, la famiglia, perché la famiglia è importante. La famiglia. La famiglia. Sì, è importante. No, è che in realtà cioè questa cosa del Natale, i parenti, eccetera, è una cosa che mi sta molto a cuore. E mi che fa te, anche... te pesa sul cuore, cioè dalla... No. Sì, cioè, no, vabbè, non entriamo in questo argomento che poi come intristito tutti. Ho capito, ci ha fatta la canzone, cioè non è che... Cioè, ci ha fatto la canzone, ci sta a fare il disco, la stai anche presentando in radio. Vabbè. No, però... sono quelle cose che poi alla fine accomunano tutti noi, no? Per quanto possiamo averci, tipo, la vita più assurda del mondo, poi parliamoci chiaro, a Natale, appunto, siamo tutti più parenti, alla fine ci facciamo tutti la cena con la famiglia, per quanto stiamo là, ah, oddio, che palle, ah, Natale, ah, che... No, io vado solo all'antinatale al Bencivenga. Ovviamente, no, giusto, cioè, no, ma all'antinatale al Bencivenga, però dai, un pochino, io lo so, sarò scema, sarò banale, però un pochino ce l'ho quella cosa, cioè mi è rimasta un po' quella cosa da bambina, che per me Natale so... i parenti, la cena che te zozzi tutto e finisci a dormire sul divano con l'altro che giocano a carte, i film di Natale del cazzo e le dita appunto che puzzano di pesce e i regali brutti, che sono una cosa che a me però mi camicie, fa... Quante camicie di flanella c'hai? Madonna, quanti pacchi di calzini che c'ho. Tra l'altro il regalo più brutto penso che ho ricevuto in vita mia, me lo ricordo ancora, cioè avevo tipo 14 o 15 anni e mia nonna, a cui voglio un bene dell'anima, però è mia nonna, cioè, nel nonna. Senso non è che mi regala la, certo. la cosa figa. A 14-15 anni, per farmi sentire una ragazzina figa, mi fece un regalo che secondo lei era all'ultima moda. Mi regalò un body, cioè i body, che tra l'altro non si usano più dall'86, un body di velluto con i bottoncini. Ma che costine? Si allaccia. No, non era a costine, ma era di velluto verde. Bello. Era una cosa, cioè ti giuro, forse la cosa più brutta che io abbia mai visto in vita mia, e vi giuro è uno dei ricordi più belli che ho in tutta la mia vita, perché l'ho visto e ho detto, ho guardato nonna che c'aveva due occhi grossi come una casa, sei contenta, questo è figo, grazie nonna. Faceva schifo, non l'ho mai messo, però ecco, per me il senso di questa canzone è anche sì, questo. Sì, no, ma vabbè, dico questa cosa poi, insomma, che non interesserà a nessuno, la chiudiamo qui, poi passiamo al prossimo pezzo magari. No, cioè, mia nonna, si spiegano tante cose, 5 anni, cioè bambino, no? Cioè, regali una caramella, no? I calzini e me li dava, tipo, ti ho regalato i calzini. E io la guardavo, cioè, ma che me frega, ce l'ho i calzini, non me... Va bene. Lo so, i calzini sono un grande classico del Natale. Va bene, no? Abbiamo la faccia dei bambini scalzi. Ok. Va bene, siamo pronti, sei pronta con un prossimo? No, perché c'ho una scaletta, quindi improvviso. Vai. Allora, che ti posso fare? Allora, vabbè, hai esordito con un pezzo tuo. Faccio una grande cover per il grande pubblico. Sì. Siamo contenti quelli dei Vice? Va bene, sì. Allora, prego, no, La presenti tu, insomma, no, vabbè, insomma, Pagliaccio di ghiaccio. Ok. Che, cioè, già da sé è una canzone particolare ed apprezzata di quell'artista, lo vogliamo dire? Metal Carter. Esatto, e tra l'altro ci tengo a precisare che io questa cover, la prima volta che l'ho fatta nel 2007, cioè quasi 10 anni fa, praticamente poco... neanche un anno dopo che era uscita. Appena l'ho scoperta, ho fatto subito la cover perché mi piaceva tantissimo, perché comunque c'ha un testo incredibile, un testo assurdo, però, cioè, che sembra fatto a caso, però, cioè, ti lascia il dubbio che ma non è che tante volte ci potrebbe essere quella profondità che non riesco a capire. Esatto, no, mi era piaciuta talmente tanto che l'ho fatta subito nel 2007 in cameretta, mi sono chiusa là e l'ho fatta, l'ho suonata tipo una volta live così e poi l'ho cannata. E invece poi Vice ha detto che quel giorno, insomma, hai deciso di pubblicarla sul tuo canale, esatto, di YouTube, e da lì, insomma, l'inizio del successo di tua nonna. Ok, comunque grazie Metal Carter per questa canzone che ha regalato all'umanità. Stupro mia nonna dentro un bosco, le metto nella vagina un poster di Vasco, in questo posto perdo il controllo, sono Max Pezzali con un teschio sul collo e non ti mollo, sono un sergente di metallo su un cavallo bendato, sono il mandante delle stragi di Stato, non sono in grado di mantenere equilibrio, guidandomi a rimasti in mano in manubrio della mia banda, mio padre odia la mia banda, io ho menato e sputato in faccia una bevanda alla standa, ho già organizzato 6 attentati, tutti falliti. Giro con un clan di drogati accaniti, antagonista e me ne compiaccio, Pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, Pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, Pagliaccio di ghiaccio, le tue colpe te le rinfaccio, Pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, Pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, Pagliaccio di ghiaccio. Incrocio ad ogni angolo di strada, la gente si è abituata e non ci bada, vivo la mia vita anche se se n'è andata a puttane per strada con un prete idolatra, senti chi è qui che rifiuta ogni compromesso, chi dorme sull'acciaio, niente materasso, adesso voglio andare a un congresso per lanciare tutti gli insulti che ho represso. Ho scommesso che avrei pestato Paolo e Chiara, che mi sarei masturbato dentro una bara. Sto in gara contro me stesso e contro la parte di me che vuole vendetta ad ogni costo. Antagonista e me ne compiaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio. Le tue colpe te le rinfaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio. Conosco, giuro guerra allo Stato, ma sono già morto ieri, mi sono impiccato, isolato nel mio mondo, così non mi confondo con le merde che hai attorno e sprofondo nel mio abisso. Ti appaio in sogni in braccio Gesù Cristo, se insisti costo disco, sposato col rischio, ceno nel buio pesto, con candele nere e un grande teschio. Del resto, quando sto bene ho il mal di testa, imbocco in tuta mimetica alla tua festa, b-boy sotto inchiesta, pan con la cresta, spacco con la testa una finestra. Antagonista e me ne compiaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio. Le tue colpe te le rinfaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio. Beh, grazie, no, grazie. No, no, emozionante, emozionante. Ti ritrovi a un concerto Bunkercore, no? Sì. Cioè, nel nulla, nello squat più assurdo. Cioè, neanche che dici, lo leggi prima sull'iniziativa, insomma, come si fa adesso. E ti ritrovi tu nonna, no? Cioè, ti ritrovi questi concerti tu nonna a sorpresa. Spesso capita così, no? Sì. E ci sta, cioè, nel senso, poi cioè, dallo stupore, insomma, di magari chi ti viene a sentire per la prima volta dice: ma che cos'è? Io ho visto sguardi nella gente che mi sentiva, e voi umani non potete neanche immaginare. Sì, magari il crastone a braccia conserte che sta così, no? Che aspetta che fai qualcosa, sì, di, sì, devastante. Che aspetta che mi si distorce la chitarra, che mi voglio che comincio a parlare così. Che però no, purtroppo non succede. Però sti crastoni c'hanno il cuore tenero poi alla fine, no? Beh, sì. Cioè, se li sa prendere, sì, sul... Sì, sì, devo dire di sì. Cioè, devo dire che in realtà, appunto, la cosa che mi fa più piacere è poi trovarmi a suonare, appunto, perché mi è capitato un botto di volte di suonare, appunto, in situazioni di concerti, negli squat, cioè duri e puri, eccetera eccetera, e il pubblico non è esattamente quello che si va a sentire una cosa acustica. E poi ritrovarmi, appunto, questi abbraccio concerte questi abbraccio concerte che poi là, oh, bello, però non so, mi è piaciuto, però mi piace, cioè, con un po' di remora, sì, quasi, sì, te lo dico, però sei bravo, no, però mazza, sei bravo, bello, però mi è piaciuto un sacco, è una roba, è bello, cioè, vabbè, ma perché non... cioè, poi alla fine porta su una, cioè, alla fine penso chi insomma frequenta spazi occupati o va ai concerti non è che va solo come fruitore di una riproduzione musicale di un qualcosa, no? Cioè, no, assolutamente, si va per no. Vivere un certo tipo di socialità, no? Certo. Che poi alla fine magari se c'hai sei gruppi death grind, cioè, è solo quello, invece è il momento, appunto, diverso, dove girano nell'aria, insomma, atmosfere diverse, è anche, sì, liberatorio, sì. No? Sì, poi ecco, probabilmente gli faccio pure pena perché è tipo il momento, come adesso, tipo imbarazzo sempre totale, tipo essere sempre impreparati, essere sempre sinceri pure un po', che vabbè, però quella già una, cioè, può essere una sicurezza, no? Impreparati sempre, sì. Cioè, almeno alla mia, quindi chitarra scordata perennemente pure adesso. Va bene, allora Senti, io volevo però, cioè, andare a ritroso, sì. Cioè, perché adesso abbiamo fatto una, cioè, hai eseguito un pezzo appunto attinto dall'immaginario anche di insomma dell'internet, no? Yes. E io volevo invece partire a ritroso partendo da un pezzo dell'internet e quindi rifarlo, cioè che lo rifai a te adesso, no? Cioè, così raccontiamo, certo, un po'. Quindi certo, te lo faccio a sorpresa, perché allora vabbè, tanto insomma, cioè, voglio dire, provo. Quale sarà? Cioè, allora, un attimo di attesa che mi preparo. Intanto, insomma, sempre i Nuclear Assault che vanno a manetta, e è sempre cosa buona e giusta. Sì, sì, sì, l'abbiamo trovata. Allora, lui è bello figo e questa è Pasta con Tonno. Tutti sanno che mangio pasta con tonno, con tonno, con tonno, con tonno. Ma che ore sono? Mezzogiorno e mezzo. Quando ero a scuola pensavo solo pasta. Sono in cucina, sembro uno chef. Con tonno a campore in the birth. Per la mia figa preparo un po' di pasta. Se non mangia tonno, allora non mi parla. Se non mangia pizza, allora non mi tocca. Anche lei lo sa che mangio solo pasta. Posso spendere 10.000 euro per il tonno. Mi stanno cercando per rompermi il collo. Posso spendere 10.000 euro per il tonno. Mi stanno cercando per rompermi il collo. Perché? Tutti sanno che mangio pasta, pasta. Tutti, tutti, tutti sanno che mangio pasta. Con tonno, con tonno, con tonno, con tonno. Ehi, tutti sanno che mangio pasta, pasta. Tutti, tutti, tutti sanno che mangio con tonno. Vabbè, è un atto criminale chiudere il brano, il brano originale di Bello Figo. No, vabbè, ok. No, sì, allora, come cioè, cioè, cerchiamo di descrivere questa cosa, perché cioè, è un'operazione che facciamo tutti quanti, no? Cioè, diciamo che lo sport principale dell'Homo sapiens medio del 2016 è annichilirsi con qualche tormentone trovato su social o YouTube, no? E cioè, lo facciamo tutti. Beh, cioè, sì, cioè, non sì, guardateci così, perché poi lo facciamo tutti. Non sentiteci, non sentiteci così, tu, proprio tu, infatti. E insomma ci piace insomma il disturbo mentale anche, no? Sì, allora io sono una grandissima malata di YouTube, soprattutto di trash in generale. E trash, cioè no, non di trash, cioè qualsiasi non cosa, TH trash alla, anche di trash, quello di trash, quello lì, però anche di trash quello brutto. E però diciamo che mi piace trovare sempre la parte romantica anche nel trash più becero, e è quello che me lo fa un po' amare, perché comunque sotto ogni cosa trash alla fine secondo me ci sta comunque un pezzo di umanità, non è solo la presa per il culo fino a se stessa. Oh, cioè 4.777.830 visualizzazioni. Ma Bello Figo, io calcolo me lo sono andato a vedere live a Perugia sempre. Ma lui di dov'è Bello Figo? È di Parma, sta a Parma, sì. cioè gira, suona. Sì, sì, sì, ha fatto un concerto tipo ad Halloween dell'anno scorso, mi pare, sì. Io me lo sono andata a vedere, e a parte il fatto che è tipo la persona più magra che io abbia mai visto sulla faccia della terra. Cioè mangia la pasta col tonno però tipo una volta al mese, esatto, probabilmente. Non voglio fare battute facili, però veramente, cioè tipo è incredibile, cioè riesce a essere 10 volte più trash live che così, cioè, su internet. È lui, è vero, è così. È così, è proprio così. Cioè non è un po' un personaggio costruito, non, cioè che... Guarda, non lo so, non facciamo della dietrologia su, esatto, su Bello Figo. Non lo voglio neanche sapere che cosa c'è dietro, io lo accetto sì, così com'è. E però ripeto, io mi nutro anche di queste cose di trash e tutto quanto, e mi piace reinterpretarle e perché alla fine funzionano, cioè ci sarà un motivo se c'ha 4 milioni eccetera eccetera visualizzazioni, cioè funzionano perché comunque, cioè la pasta col tonno, cioè che è scritto, cioè, vabbè, e tra l'altro è il mio piatto preferito. Vabbè, ma quindi sei andata a vedere Bello Figo al concerto, cioè vabbè, come abbiamo finito il concerto, oppure cioè, ti sei presentata? No, impossibile, no, tipo roba dei security. Ma che, davvero? Sì, sì, voglia, era tipo impossibile arrivarci, c'era gente che tipo c'era il fan club con tipo le magliette con tipo la scatoletta di tonno stampata. Vabbè, dai. E cioè c'era una fila incredibile, la security tipo era impossibile raggiungerlo, non mi sono presentata, non si poteva fare, cioè, era una situazione senza senso perché cioè, veramente... cioè quanta gente c'era a vedere Bello Figo? Ma in realtà non erano neanche tantissimi, guarda, non saprei quantificare, però cioè che ne so, 200 persone, cioè non era una cosa incredibile. Però era tipo una situazione con gente con l'auricolare. Ah no, aspetta, fate largo. E era, faceva un botto ride perché non ce n'era assolutamente bisogno. Sfigo. No, era molto bello figo. Va bene, quindi non c'ho avuto l'occasione, insomma, di. Però a distanza invece degli iscritto, cioè ti sei palesata come. Sì, sì, in realtà. Come coverizzante di Bello Figo. Sì, sì, in realtà non mi ricordo neanche. Sì, mi sa che gliel'avevo mandato a qualcuno, gliel'avevo mandato al posto mio, non mi ricordo. E lui non ho il coraggio di sapere cosa ti abbia risposto Bello Figo. Cioè, no. No, lui mi ha risposto tipo: ah, ti mando la mia mail, mi mandi la base. E io ho detto: cazzo, figo, magari ci vuole cantare sopra. Poi la base, capito, pure quella registrata in cameretta malissimo. E io gliel'ho mandata e tipo non lo so che cazzo che ci ha fatto. Vabbè, è impegnatissimo. Va bene, e niente, quindi dopo aver ascoltato l'originale Pasta con tonno di Bello Figo. Ah, scusa l'ignoranza, io non lo so. Mica tutti possiamo sapere tutti. Cioè, swag, che significa? Ma sai che in realtà non lo so nemmeno io, però okay, mi sa che è una cosa figa. Cioè, una cosa che se dici swag, cioè io spero che non sia qualcosa di brutto. Cioè. Boh, non lo so, prova a andare alla stazione Termini di urlare fortissimo: io sono swag, e vedi che succede. Okay. Potresti scoprire che allora è una cosa punta. Figa oppure no. Potrebbe essere un test, sì. Va bene, allora siamo pronti, ci siamo scaldati con Pasta col tonno di Bello Figo. Adesso la versione di Tu nonna. Mangio pasta, tutti sanno che mangio pasta con tonno. Tutti sanno che mangio pasta, tutti sanno che mangio pasta con tonno. Con tonno. Ma che ore sono? Mezzogiorno e mezzo. Quando ero a scuola pensavo solo pasta. Sono in cucina, sembro uno chef. Contorno, I can put it in my bread. Per la mia fica preparo un po' di pasta. Se non mangio pasta, allora non mi parla. Se non mangio pizza, allora non mi tocca. Anche lei lo sa che mangio solo pasta. Posso spendere 10.000 euro per il tonno. Mi stanno cercando per rompermi il collo. Posso spendere 10.000 euro per il tonno. Mi stanno cercando per rompermi il collo. Tutti sanno che mangio pasta. Tutti sanno che mangio pasta. Contorno, contorno, contorno, contorno. Tutti sanno che mangio pasta. Tutti sanno che mangio pasta. Contorno, contorno, contorno, contorno. Sembro italiano, mangio solo pasta. Se non è pasta, allora sarà pizza. Alle mie serate mangio solo pizza. Dopo serata mangio solo fica. In America mangiavo solo pasta. E anche in Germania mangiavo solo pasta. E anche a Londra mangiavo solo pasta. In Africa e ancora mangio pasta. Come un arabo che non scherza con kebab. Come thailandese che non scherza con il riso. Come italiano che non scherza con le pasto. Figo swag, no, io non scherzo con il tonno. Come un arabo che non scherza con kebab. Come thailandese che non scherza con il riso. Come italiano che non scherza con le pasto. Figo swag, no, io non scherzo con il tonno. Tutti sanno che mangio pasta. Tutti sanno che mangio pasta. Con tonno, con tonno, con tonno, con tonno. Tutti sanno che mangio pasta. Tutti sanno che mangio pasta. Con tonno, con tonno, con tonno, con tonno. Allora, mentre insomma arrivano anche messaggi con minacce, perché insomma no, fare il minimo. Ricordiamo, no, vabbè, insomma, Radio Onda Rossa, radio antispecista, oltre che antifascista, antisessista, e insomma, sì, ci arrivano anche messaggi minatori, insomma, e magnatela sta pasta col tonno, cioè proprio con l'olio. Però insomma, se tu la mangi è meglio. Il nostro annuncio ad inizio trasmissione ha ricevuto qualche riscontro, perché ci abbiamo in linea un ascoltatore. Dai. Pronto? Sì, sotto mentite spoglia ci sono? Sì, sì, no, ma cioè ritorno. No, perché c'ho la radio accesa, ma mi sento poco. Allora scusami, abbassa la radio. Cioè, fanno così, sì, no? Vabbè, sì, no, fa è la sua parte. Aspetta che vado. Hai vinto un milione in gettoni d'oro. Quanti fagioli ci sono nel barattolo? 100.400, un barattolone grande. Hai vinto un milione. Okay. Un milione di non fagioli, si sa. Hai vinto un milione di fagioli. Di schiaffi. No, veramente un momento topico questa cover di Bello Figo. Mi sono sentito chiamato in causa, perché insomma è vero. Ma per il Bello Figo o per il tonno? No, vabbè, poi arriviamo anche a quella parte lì dell'argomento. No, mi sono sentito in causa, mi sono sentito toccato dalle parole, appunto, e dalla drammaticità interpretativa di tua nonna, che ha reso appunto il trash trash. No, va benissimo, è tutto molto bello, è tutto molto carino, molto simpatico, però c'ho un problema. Cioè? Cioè che adesso ho cacciato la pasta e praticamente si è messa a scoce. Cazzo, questo è un momento veramente drammatico. Cioè, ispirato da tuo nonno che cantava pasta col tonno, ha detto no, ma casualmente poi stavamo cazzeggiando così e traccheggiando dentro casa con appunto l'acqua che bolliva e siamo andati a mettere proprio nella pasta nel momento in cui, anzi a cacciare la pasta nel momento in cui tua nonna cantava. E quindi vi devo salutare. Capita anche questo, insomma, no? È un momento drammatico in diretta, ti ringrazio. Come ti chiami? Chi sei? No, va bene. Non è importante. Non è importante. L'importante è salvare la pasta. Vuoi mantenere l'anonimato e soprattutto la cottura della pasta? Sì, esattamente. Ma pasta come? Come la state a fare? No, con i funghi. No, buona. Abbiamo anche rispettato, diciamo, gli canoni e. Come dire, i paletti che ha messo la radio, no? Passa coi funghi al sugo, quindi passa coi funghi al sugo, scotta. Scotta? Bellissimo. Incollata. Siamo assolutamente una regolarità. Sono veramente emozionata per questa cosa. Mi dispiace che sia scotta la pasta, ma sarà buona perché comunque c'è l'amore di sottofondo. Bello, allora. Vabbè, vi lascio continuare al live. Grazie, grazie, poi... grazie mille. Grazie, pasta coi funghi. Adesso passiamo al secondo, penso, no? Sì, vediamo il menù di questa sera come si svolge. Secondo so le peperoni. Ah, bene, bene, bene. Che tra l'altro stiamo bevendo abbondantemente qua, non so se si sente. Quindi si comincia ad avvertire. Quindi stappate una peperoni mentre mangiate la pasta coi funghi e brindate. Ok? Va bene, bella, dai. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Niente, il bello della diretta, no? Cioè, che è successo? A me mi si è scotta la birra. Tra l'altro qui stiamo bevendo peroni, ma non lo dico perché stiamo bevendo peroni. Ma tu stai cercando l'endorsement? Io tra l'altro sto cercando fortissimo come di farmi sponsorizzare da peroni. No, non è vero, non cerco di farmi sponsorizzare da peroni, però farebbe un botto ride. Vabbè, però insomma, ricordiamo Do It Yourself Invasion, la trasmissione, insomma, che è un po' un occhio mentre si accende tutto, che è un po' un occhio aperto su quello che è il mondo dell'autoproduzione. Però cioè, questa sera facciamo un'eccezione perché tu nonna è un progetto, no, insomma, cioè hai iniziato tu nonna per fare i soldi e ha voglia, ecco. Non so più dove metterli, calcolati, cioè, tipo... il progetto tuo è diventare, insomma, ovviamente tutti messi sotto il materasso, certo. Perché come la nonna ci insegna, e no, dicevo, cioè un progetto, insomma, nato per fare sì, per fare i soldi. Assolutamente no, cioè tipo mi fa un sacco ridere dirlo perché comunque è una cosa che non farà mai i soldi. Va bene, senti. No, veramente sul serio, no. Cioè mi piace dire è un progetto a scopo di lucro, ma ecco. Beh, perché è tipo la cosa più contraria allo scopo di lucro al mondo, perché comunque ma dove vado? Vabbè, cioè non si sa mai. Sì, un attimo di confusione perché si accendono mille luci tra mille telefonate, gente che suona di qui. Abbiamo le linee calde. Le linee calde, cioè, no. Ah, tra l'altro, no, cioè, ad inizio trasmissione, ovviamente mi sono sbagliato. Avevo dato il numero di telefono che è stato provvisorio per tipo 2 mesi. È ritornato il numero storico di Radio Onda Rossa, che cioè proprio dal che è 144 144 144. No, dal 1977 è lo 06, cioè 06 è venuto un po' dopo. Beh, 06 49 1750, 06 49 1750, potete ancora farvi sentire perché saremo qui almeno fino alle 10:30, forse qualcosa di più. E noi, cioè tu nonna è pronta con il prossimo pezzo, lo vogliamo annunciare? Sì, che si chiama A caccia di peroni, che lo suonerò malissimo perché abbiamo cacciato un sacco di peroni, è stata una caccia prolifica stasera. E sì, che parla di bere le birre regà la sera quando non c'è niente da fare, fa un po' freddo e siete un po' tristi, oppure un po' allegri. Quindi il pezzo antistrategia per antonomasia di tua nonna. Sì, fondamentalmente sì. Si chiama A caccia di peroni. Visto quello che sta sempre lì in barcone, non mi ha guardato, ho voglia di correre all'Inps. Provo a parlarti ma sembro Luca Giurato, vado a fare amicizia sulla metro C. Se devo uscire vado a caccia di peroni, Safari Bangla mi potrebbero aiutare. Ne ho catturate quasi come quell'estate, e fatto finta di fare festa con la Fanta. Se fa una pasta scotta con il cocco e il melone, non so la differenza ma ti voglio bene. La rasta a bocchi era solo una ragazza e sospirava anche lei con Alberto Castagna. Se devo uscire vado a caccia di peroni, Safari Bangla mi potrebbero aiutare. Ne ho catturate quasi come quell'estate, e ho fatto finta di fare festa con la Fanta. Vorrei uscire e andare a caccia di calore, ma resto qui dal Bangla, continuo ad aspettare. Non c'entra niente che sia freddo pure estate, 1,20 euro è il prezzo delle mie serate. Abbiamo insomma aperto agli ascoltatori e le ascoltatrici a domande, a qualsiasi domanda a tua nonna, e ci è arrivata anche una domandina polemica, cioè? Da un personaggio che è sempre polemico, cioè lo conosciamo, il più polemico d'Italia, insomma, sì. Vabbè, abbiamo capito chi è. E, no, ci scrive, aspetta, vediamo se vuole farla lui la domanda direttamente. Vabbè, intanto l'anticipo io. Ci scrive il caro Mastello, sì, che è all'ascolto da Torino. Ciao Fabrizio. Dice, ma cioè, vabbè, dovrei fare la sua voce, non so se vuole chiamare più tardi. Comunque, ma come si pone nei confronti di quei cantatori come Giancane che insultano le sue coetanee con il pezzo Vecchi di merda? Ma come mi pongo? Giancane, tra l'altro, ci stavo bevendo fino a 5 minuti prima di arrivare qua. Sì, no, bello, il tema portante, vabbè, insomma. No, sì. No, ma che scherzi, no, Giancane, tipo, vabbè, io e Giancane ci conosciamo tipo da 120 anni, anche lui è nato un milione di anni fa. Anche lui è un vecchio? Cioè, sì, un vecchio di merda. E no, pensa che Giancane, io e Cangiarlo, io chiamo Cangiarlo perché per me è Cangiarlo, e pensa che facevamo, io l'unica volta che ho fatto la radio dopo questa in vita mia è stata con lui, tipo nel 2007, 10 anni fa, io e lui facevamo una trasmissione su Fusolab insieme. Che si chiamava Trash Supply, e la facevamo in cameretta sua capitava anche con sua madre, che ogni tanto rientrava e noi stavamo lì con i microfonetti a dire stupidaggini. E niente, per me lui è tipo quello con cui ho iniziato a dire le stronzate in vita mia, cioè tipo veramente più di quasi 10 anni fa. Quindi non mi offendo se dice vecchi di merda, ecco. Eh sì, no, evocandolo, insomma, che devi fare? Lo nomini, chi c'ha in linea? Ma io mi sono fermato pure, ero in macchina, cioè pure. Cioè, ciao! Onnipresente sulle frequenze FM, non solo, di tutta Italia. Anche di tutta Italia. Però potevi fare un po' di polemica, però. Io l'ho buttata lì. Troppo soft l'ho fatta. Ma sì, ma anche lei ha risposto proprio male. Vabbè, ma perché hai toccato una persona capito, a me vicino. Però cioè, sai lì che state parlando della pasta, della Peroni, una minima di questi. Dai, facciamo un po' di polemica, dai. Ma no. Questi non li sopporto, questi che fanno il folk così. Non gli vorrei menare una roba di questo genere, no? No, vabbè, ma cioè, nel senso, chi meglio di te può generare polemica del nulla in qualsiasi momento della giornata? Cioè, il baffo preso a male, insomma. Il baffo... Ma non è vero, è vero che io bevo la Moretti perché c'ha il baffo e tutto quanto. E poi perché usanza del nord bere un altro tipo di birra, insomma, un po' più decente delle Peroni. Però un'altra domanda, prima o poi tua nonna ho perso l'accento prima o poi tu nonna suonerà davanti a un cantiere? Madonna, ma lo sai che in realtà ci avevo pensato? È vero? Ci avevo pensato fortissimo, in realtà volevo suonare tipo, che ne so, una bocciofila, un cantiere. Tra l'altro c'è mia madre di lavoro, lavora in una casa di riposo. Cioè, è vero, cioè, nel senso, mia madre lavora in una casa di riposo, cioè accudisce i vecchi. E quindi, cioè, non lo so, potresti allietare. Sì. E poi volevo fare un'altra domanda, ma un featuring con Metal Carter sulla cover? Capito. Ma in realtà questa cosa me l'hanno. Mastello c'ha l'occhio lungo da produttore. No, me l'hanno già chiesta molti. Ma lui, tra l'altro, Metal Carter l'ho beccato al Malatempora neanche troppo tempo fa. Avevamo parlato di questa cosa della cover e lui mi ha detto: no, come minimo mi devi offrire una birra per questa cosa. Addirittura. Quindi potresti farlo cantare su Peroni, se cacciamo Peroni, no? Esatto. Mi sembra pure, cioè, vuoi una birra, allora canta il pezzo sulla birra. Esatto. Mi sembra esatto. Pure giusto. No, mi è parso il minimo offrirgli una birra, però non so se mi sento addirittura di chiedergli un featuring. Però no, così. Live, magari una sera a Bencivenga, visto che io e Dario l'ultima volta che l'abbiamo vista a Bencivenga, insomma. Sì, una sì, sera sì, a Bencivenga, sì. Una chitarra, via, pagliaccio di ghiaccio, via. A voglia, anche se io, guarda, ti dico la verità, non è per metterla sul serio, però in realtà pure questa cosa delle cover, soprattutto della cover di Pagliaccio Ghiaccio, non la voglio troppo calcare, nel senso che infatti sto registrando il disco e la cover dei Pagliaccio Ghiaccio non la sto mettendo nel disco, perché comunque mi sembra un po' troppo appunto calcare la mano, tra virgolette, ti piace vincere facile, a me non mi piace vincere facile, a me mi piace perdere, quindi non... Vabbè, ho capito. Io penso che sul prossimo disco ci sarà una cover di Calcutta, dillo. Sì. No, non credo. Vabbè, non credo. Dopo le mille polemiche io mi vado a bere un San Simone, come si dice da queste parti. Dai, forte, come si dice dalle nostre parti. Ok, quindi farai Pagliaccio di Ghiaccio live. Guarda che cioè, Chicco già l'ha fatta. Raga, se uno lavora non so cosa fare, mica sono al come... nord si lavora, mica come noi che stiamo qui a perdere tempo a cazzeggiare, insomma. Va bene, un abbraccio a tutte e due, buona continuazione. Ciao, grazie Fabri, ciao. E vabbè, insomma, sì, si solleticano sì, domande polemiche, cioè sul nulla, come piace a noi, no? Come piace a noi, esatto. Ok, allora 22 e 23 minuti primi. Ole. Stiamo andando, insomma, a chiudere, ahimè, l'appuntamento di questa sera. Ci vuoi lasciare con un ultimo brano? Sì, vi lascio con un ultimo brano che probabilmente sbaglierò, che si chiama Mia nonna, ma non è un brano autocelebrativo, perché tu nonna, sempre questa ossessione dei parenti, però sì, è il brano che parla delle nonne in generale, okay. Non di tua nonna. Si chiama Mia nonna. Ok, aspetta che me la devo ricordare. Mia nonna abita proprio dentro casa mia, o va al mercato, la trovi in farmacia. Mia nonna ha detto che mi vede un po' sciupato, m'ha dato 30 euro per il gelato. Quanto benessere una rossana se va... Aspetta, ma sono scordata. L'emozione. Quanto benessere una rossana se ti sposi il figlio, poi lo chiami come me. Mia nonna rosica, se la domenica non vado a messa per rispondere alle mail. Ora ad agosto tu riesci a sembra seria, quando a 40 gradi chiedi c'hai la canottiera. Ti scordi tutto e ricordi inutilmente che ride e pianga a caso certe volte. Quanto benessere una rossana se guardo forum in poltrona è perché la palla unica, buona domenica, mi rompo il cazzo ma sto bene insieme a te. Quanto benessere quella rossana che mi allappa tutta e guardavo da età tre. Nonna non piangere, devo pur crescere e magari arrivarci vecchi come te. Cioè, no, dovevo che ho fatto schifo. Dovevo prepararmi con gli applausi, quelli da drive-in. Ok. Va bene. Allora, insomma, siamo giunti alla chiusura di questa. Sì, di questo nuovo corso di Do It Yourself Invasion. L'abbiamo fatto appunto celebrando con questa ospitata di tua nonna. No, grazie. Ti ho fatto aprire veramente in bruttezza. Cioè, perché? Ma no. Ma perché? Ma no, è stato un sacco carino. Cioè, No. Probabilmente mi farà sparire. Tipo, no, vieni, che ti faccio vedere il resto dello studio. E no, poi mi fa sparire. No, vabbè, insomma, io volevo chiedere scusa agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa e a tutta la redazione, anche agli ascoltatori occasionali che magari. Cioè, Radio Onda Rossa non è sempre così. Cioè, nel senso. Forse capiterà, insomma, a volte il martedì sera, però insomma, cioè, abbiate pazienza, no? Ok. Abbiate pazienza, che è la prima e l'ultima volta che mi sentirete in radio, probabilmente. Non è detto, anzi, io rilancio perché insomma. È rimasto, cioè siamo a scadenza insomma di trasmissione, però quando vuoi puoi venire qui a Do It Yourself Invasion anche a portare una tua scaletta, che insomma ce l'eravamo detti. No, è rimasta la curiosità di quello che ti senti tu poi, cioè, quindi giusto, infatti. Però insomma un piccolo assaggio lo possiamo dare già adesso. Mi preparo un brano che tu sceglierai. Okay. intanto chiudiamo e vuoi salutare tutti quelli che vuoi? Allora, saluto tutti quelli che mi conoscono, ringrazio mia madre per questo titolo che veramente sono molto emozionata, ringrazio chi è arrivata dopo di me qui in questa competizione di Miss Italia, grazie veramente, e ringrazio tutti qui a Radio Onda Rossa, ringrazio Dario che comunque a breve mi darà, tipo, mi tirerà una bottiglia in testa. Ma forse me la tirerà a me? Vabbè. No, veramente grazie, scusate raga. Tanto a breve non sentirete più parlare di me. Forse anche di me. Va bene. Ok. No, grazie ancora. Vabbè, insomma, troverete se mi sarà accordato, insomma, il podcast sul sito di Radio Onda Rossa, e forse, lasciamo in forse. E no, grazie ancora, e va bene, un po' di Nuclear Assault e poi vi metto un paio di pezzi in linea con quello che mi sento io. Ringrazio ancora Onda Rossa, vi lascio con un pezzo così scelto, un po' romantico, per salutarvi. Questi erano i Municipal Waste. Il pezzo cioè, te lo ricordi qual era? No? Rigorous Vengeance. Ok. Non si pronuncia così, però. Vabbè, questo era il pezzo romantico, appunto, scelto da tua nonna. Vabbè, e insomma, sì, rinnoviamo un'altra volta, insomma, i saluti con tua nonna. Quando vuoi venire a trovarci a Do It Yourself Invasion? Con una scaletta, con chiacchiere, quello che vuoi. Con una busta di però. No. Quando vuoi, insomma, Ok, se non mi fate fuori stasera arriverò volentieri. Saluto a tutti, grazie insomma della pazienza. Un abbraccio in particolare va a tutti coloro che si trovano privati della loro libertà personale, un abbraccio forte e speriamo insomma di vedervi tutti e tutte libere prestissimo. Vi lasciamo alle selezioni di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Dai!